Oggi si festeggia San Ugo di Grenoble, il santo patrono della cittadina francese di Grenoble, della quale fu vescovo. Auguri a tutti coloro che portano il nome Ugo. E questo nome che significa persona dallo spirito, dalla mente, intelletto molto perspicaci. Sono circa 16 i santi e i beati che portano il nome di Ugo, tra i quali il più importante è appunto quello di Ugo di Grenoble, quasi contemporaneo dell'altro Ugo, abate di Cluny, che fu uno dei principali artefici dell'espansione della riforma cluniacense, la riforma dei monasteri di mezza Europa. Ugo è conosciuto per il famoso miracolo da lui compiuto nel refettorio dei monaci e che Zurbaran ha egregiamente dipinto. Era entrato nella certosa di Grenoble proprio nel momento in cui veniva servita la carne, un cibo che la regola dettata dal fondatore proibiva. Era proibito a tutti i cistercensi la carne. Ugo allora sfiorò appena con la mano destra la carne, e questa scomparve. Ma chi era Ugo di Grenoble? Era il figlio di un conte del Delfinato di Francia e a soli 25 anni divenne canonico di Valence, pur essendo ancora laico nella sua condizione. Aveva insegnato a Valence e a Reims la scuola di San Bruno, che dopo 20 anni di insegnamento della teologia fondò l'ordine dei monaci certosini. Ugo era un giovane di bell'aspetto e dai modi timidi che, aggiunti alle sue capacità, contribuirono in qualche modo alla rapida ascesa nelle varie gerarchie ecclesiastiche di questo santo. Il legato pontificio aveva notato questo giovane promettente e lo prese come suo segretario, conducendolo ad Avignone per il sinodo dell'anno 1080. A 27 anni venne nominato da Papa Gregorio VII vescovo di Grenoble, dove divenne un grande riformatore. In questa cittadina francese ha esercitato il suo ministero pastorale per ben 52 anni e, nonostante i numerosi tentativi, sempre rientrati, di ritirarsi in monastero. Ugo era uno spirito contemplativo e avrebbe volentieri scambiato il pastorale episcopale per il saio dei certosini. Ha collaborato con diversi papi e particolarmente con Papa Gregorio VII, con Papa Urbano II, Pasquale II e Innocenzo II, che Ugo appoggiò soprattutto nelle lotte per la riforma, contro la simonia e contro la corruzione del clero. È stato il primo a dare testimonianza personale di rinnovamento e di grande impegno interiore. Accolse il suo maestro San Bruno e gli donò un vastissimo terreno, sia la montagna sulla quale sorse la celebre abbazia dell'ordine cistercense, la Grande Chartreuse di Grenoble. E sempre a Grenoble, per soccorrere i deboli e soccorrere i malati, costruì un ospedale, mentre per soccorrere le altre necessità della vita intraprese la costruzione di un ponte di pietra sull'Isère. Fu un grande pastore, un pastore mite e amabile, disponibile e nello stesso tempo inflessibile nel difendere i diritti della Chiesa e nel difendere il suo potere temporale. Sotto la sua guida, la città di Grenoble conobbe un periodo di grande vitalità spirituale, nonostante le continue difficoltà dovute al fatto di essere una diocesi di frontiera, posta tra l'impero germanico e il Regno di Francia. Per la sua sapienza, Ugo era venerato da San Bernardo di Chiaravalle, che spesso attraversava le montagne per poterlo incontrare. Presso la nobiltà, Ugo fu molto impopolare poiché non mancava di esprimersi chiaramente, con fermezza, contro le ruberie dei beni della Chiesa. D'altro canto, i principi di Savoia lo consultavano al punto che lo elessero come loro consigliere. Riformò la diocesi, denunciando la simonia e l'usura, due mali che Ugo combatté, restaurando la disciplina ecclesiastica ed affermando il celibato del clero. Dopo soli 2 anni di episcopato, Ugo, scoraggiato per i pochi progressi ottenuti e anelando una vita più perfetta, vestì l'abito benedettino, ma il Papa lo rimise nuovamente sulla sede episcopale di Grenoble. Negli anni successivi ha tentato diverse volte di dare le dimissioni e di chiedere al Papa di lasciare la diocesi per farsi monaco, ma tutte le sue richieste furono sempre respinte. Infine Ugo, pur di ottenere il permesso del pontefice, partì da Grenoble verso Roma. Il Papa lo accolse e, dopo aver ascoltato le sue richieste, lo rimandò alla sua sede episcopale dicendo: «Per il bene del nostro popolo, preferisco voi, vecchio, malato, a qualsiasi altro, anche se giovane, brillante e sano». Il suo episcopato, durato oltre mezzo secolo, terminò quando, pochi mesi dopo il suo rientro a Grenoble, morì. Il popolo venerò subito Ugo come santo e le sue reliquie rimasero custodite nella cattedrale finché, nel XVI secolo, caddero in mano agli ugonotti che, per disprezzo, le bruciarono sulla pubblica piazza. E allora noi chiudiamo questa breve presentazione di San Ugo di Grenoble, rivolgendo al Signore la nostra fervida preghiera. Nessuna creatura, visibile ed invisibile, mi attiri a sé, affinché io sia di Cristo Gesù. Rogo e croce, pelve di branco, membra spranate, dilianate, squarciate, lacerate, ossa disarticolate, corpo malcerato e tremendi tormenti del diavolo, cadono pure su di me, purché io resti di Gesù Cristo. A niente mi gioveranno né i regni né le gioie del mondo. Preferisco morire in Gesù Cristo che regnare dall'uno all'altro capo della terra. Lui cerco, Lui che è morto per noi, Lui io voglio, Lui che è risuscitato per noi. Siate buoni con me, fratelli, non impeditemi di vivere, non vogliate uccidermi, impedendomi di morire per Cristo. Non donate al mondo chi vuole essere di Dio. Lasciatemi avvolgere dalla tua luce pura. Quando arriverò là, sarò uomo di Dio. Permettetemi di essere imitatore della passione del mio Dio. Se qualcuno vive con Dio in sé, intenda quello che voglio e mi compatisca perché sa ciò che mi tormenta. Amen.